Sandrina Adriano del Piemonte Orientale e si prepari Agostino De Michelis, segretario Torino Area Metropolitana. Primo congresso. Bravo. Prima volta che mi vado davanti a tanta gente. Bravo. Di essere tanto. Adorazione a mille e salutazioni a zero. Da 3 anni sono iscritto alla Gente Gozzano, full immersion, con 3 corsi a Varazze e 1 ad Arona. E presenza a tanti consigli del PO e generali, mi ritrovo ad essere coordinatore, malgrado la mia persona. Cioè, non sono ancora pronto, ecco. Ho ancora tanto da imparare e da capire. Però ho capito una cosa, che solo uniti si può fare qualche cosa. Però aggiungerò, la gente è stanca dello stato attuale di come vanno le cose italiane. E vi racconto la mia pochissima esperienza. L'anno scorso io e altri volontari di Gozzano abbiamo distribuito 1200 lettere in 3 paesi. Abbiamo fatto 40-50 km a piedi o in bicicletta. Abitanti nati prima del 57, tesserati e non, per informare cosa fa la CISL per i pensionati e anche per fare proselitismo. Con un risultato disarmante, circa 25% all'appello, 0,0, qualche cosa per cento. Ho perso. Durante le assemblee preconcursuali, ne abbiamo fatte 7 in 12 paesi nel nostro comprensorio, e anche in questo caso pochissime hanno partecipato, con 50 presenze. Sui 1257 tesserati, e anche qui abbiamo inviato 200 lettere, questa è per posta, ai pensionati più giovani per invertire la nostra RLS, che adesso è un'età media di 73 anni. Ho chiesto più avanti nei mercati rionali, agli amici che ho incontrato, perché non sono venuti? E la risposta è unanime: tanto si parla tanto e si va poco. Stessa cosa, stessa analisi si può fare per le votazioni comunali, cioè quando si parla di politica. La gente dice sempre le stesse cose, tante promesse ma fatti pochi. Io adesso ho un sogno. Se, come dicevo all'inizio, solo se si è uniti si può, sogno un'unione sindacale, CGL e UIL, anche se ognuno ha la propria cultura, ognuno però facendo un piccolo sacrificio per unirsi, per riacquistare la fiducia nella massa. È un sogno nel sogno, magari entrando in modo massiccio nella stanza dei bottoni a Roma, visto che nelle varie relazioni che ho sentito e ho letto, noi sappiamo quali sono i bisogni della gente, e non lasciare il paese in mano ai soliti politici che pensano agli affari loro e a noi non ci ascoltano. Io sogno, ma ci credo. E voi? Grazie. Bravo.